here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Just see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the signs of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Se baila así, sí. En Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila así e la ballamo sì anche qui, anche in Movieland. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato 6 di luglio 2013. Siamo nuovamente insieme, Emanuele, su Web Radio Network, che dalle 18 alle 19 vi traghetterà, questo verbo così in voga in questo momento, fino alle 19 appunto, parlando di cinema, con tanto buon cinema e tante belle notizie hollywoodiane, ma anche no, insomma. Benissimo, quindi noi iniziamo, abbiamo già iniziato con Shakira featuring Wyclef Jean, questa Hips Don't Lie, musica tratta appunto dall'album Dirty Dancing 2 Havana Nights del 2004. E voglio fare un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti i collaboratori della radio, che sono sempre molti, anzi li ringrazio. Vi ricordo che per scriverci la mail è movieland.radio@gmail.com, ma c'è anche una pagina Facebook che è www.facebook.com/movielandonvrn. Buon ascolto con questa bella canzone estiva. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. D'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare. Abbronzatissima sotto i raggi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. D'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare, e non potrò dimenticare. Non ne potrò dimenticare, benissimo. Abbronzatissima Edoardo Vianello, noi siamo quelli delle canzoni datate, sempre e quando queste canzoni abbiano fatto parte di qualche film, e questa ha fatto parte di qualche film. La canzone, pur essendo degli anni 60, ha fatto parte del film Rimini Rimini, un anno dopo, girato nel 88, uno dei, vabbè, adesso li chiamiamo cinepanettoni perché escono a Natale, prima li potevamo chiamare Canotto Ciambella, non lo so, vabbè, comunque uno di quei film della commedia all'italiana che tanto amiamo. Commedia all'italiana che torna con Luca Medici. Vi dice niente il nome? Vabbè, ve lo dico, nome d'arte, Checco Zalone è a Padova. Infatti il comico pugliese è approdato al grande schermo con i suoi film Campioni d'incassi, Cado dalle nubi e Che bella giornata. Da ieri è a Padova per girare il nuovo film Sole a catinelle, prodotto da Tau2 e distribuito nelle sale da Medusa, quindi gruppo Mediaset, dal prossimo 30 ottobre. Il film racconterà la storia di una famiglia meridionale trapiantata a Padova e colpita dalla crisi che spinge Checco a sgomitare nel mondo dell'imprenditoria alla ricerca di successo, mi posso già immaginare. Ieri la troupe, diretta dal regista Gennaro Nunziante e guidata dal produttore esecutivo, che è padovano, Giacomo Gagliardo, era a Padova, appunto, dove resterà fino a fine luglio. Quindi tutti i padovani, se volete andare a vedere un po' di cinema, andate in centro a Padova, nella prima periferia, eccetera, perché Checco Zalone sta girando il suo nuovo film. Due location scelte per la prima giornata di riprese: la zona del ghetto tra via Fabri e via dell'Arco e la mitica pasticceria del Duomo. Quindi non ci facciamo mancare niente, perché Checco Zalone sta girando il suo prossimo film che ci allieterà l'autunno, e noi vogliamo fare un piccolo omaggio. Abbiamo una cosa un po' inedita, un duetto di Checco Zalone, ma bando alle ciance, ce lo ascoltiamo perché è molto divertente. C'è una donna che mi ha cambiato la vita, si chiama Angela, e lo so, vorrei fare un po', raccontare com'è nata questa canzone, un po' l'esegesi, come cazzo parlo bene, di questa canzone. È stato in aereo, ero in aereo un giorno, vedo una ragazza splendida, con degli occhi neri bellissimi, labbra carnose, pelle vellutata, e io la noto da lontano, mi avvicino, lei chiaramente mi riconosce, e quando mi vede fa ne. Gli dico: scusami, mi puoi ripetere questa onomatopea? Ne. Come ti chiami? Angela. Scendo dall'aereo, vado a casa, mi metto al pianoforte, ripensando a quegli occhi, alla sua voce. La intoniamo insieme, è l'unica canzone famosa che ho, quindi se non la cantate è una vera figura di merda stasera. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, no, non è Angela, l'ho cambiato perché gli amori cambiano e cambiano anche le canzoni, quindi la rifaccio. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Laura, io dico te. Se mi chiedono a me, io ti do a Paola e Chiara al posto di Laura, che pure una d'accordo ci sta, ma io dico no. Ah, ecco. No. Ma cosa vuoi da me? Se anziché il caffè, io come mi sveglio la mattina, penso a dargliela. Hai schifo. Faccio la pipì, faccio le pupù, ma con la mia mente sto costantemente a dargliela. Spero che ti lavi prima di dare. Laura, io e te, per sempre insieme, sia nella buona che nella cattiva sorte, allora. Sia adesso che sei una star internazionale, che quando non ti vorranno manco più alla sagra dello squacquarone a Faenza. Ma come? Perché come arrivano quei momenti, Laura, arriva, fa parte della carriera, Laura. Ma veramente? Io avrò cura di te, ma non come a Franco Battiato a Chiacchi. Sì? Io pagherò i dottori. Per i dottori, quel per sollevarti dalle ragadi che ma per che tua ragadi? Natura ma ti colpirà. Ma cosa mi tocca di sentirti? E ti apprezzerò per sempre, sia adesso che sei magra che quando spaccherai, perché la donna ma spacca, Laura. Spaccherai e sarai, non dovrai mai temere, mai, oh mia bella. No, non sarei mai così banale. Te la do io una bottarella. Ma cosa vuoi da me? Che il caffè, io quando mi sveglio la mattina penso ad Angela, faccio la pipì insieme, ma con la mia mente sto costantemente un sogno. Ad Angela, insieme, tutti insieme. Ma cosa vuoi da me, se anziché il caffè, io come mi sveglio la mattina penso. Sei finito! Faccio la pipì, ma con la mia mente sto costantemente ad Angela. Io sono una gran fan di questa canzone, sai? Sì, sì, sì, sì. Senti, non lo so, sono troppo tesa. È la prima volta che devo fare un'intervista seria e avere Laura Pausini. Do una domanda intelligente. Sei fidanzata? No, io non sono fidanzata. E tu? No, sì, no, non sono fidanzata. Ma avevo sentito che ti stai per sposare. No, sì, no. No. Senti, ma come... come deve essere il tuo uomo ideale, no? Per fare domande intelligenti, così com'è? Allora, vediamo un po'. Mi piace un musicista che ami la musica, l'arte, lo spettacolo, diciamo. Poi mi piace che sia spiritoso, divertente. No, vero, io ce l'ho questa anima. Mi piace che abbia un po' di pancetta, quel filino. Sì, un pochino sta. E poi mi piace con gli occhi scuri, un po' mediterraneo. Ma no, no, mi stai facendo un farabo stasera. Ma di dove? No, di dove un po' focoso anche. Sai, quelli un po' che insomma mi faccia ridere, che sia. Però anche un po' che sia tenero, sai? Per esempio, una cosa che mi piace molto è la mattina, quando ci svegliamo, io mi metto lì, faccio un po' di coccole, poi non so, lo guardo e mi piacerebbe tantissimo mettere la mia mano nei suoi capelli e passare... Fangulo, Laura! Ma come? No, non è giusto, non mi pare spiritoso. Mi scappi così? Dai. Pensavi fossi tu? No, un po', che ci avevo creduto. Vabbè, e invece qual è il tuo tipo di donna? Alta, bionda e magra, Beyoncé. Ah, grazie, Beyoncé, chiaro, allora. Chiaro. è che questa non se la ricordo, non l'ha usata perlomeno una volta. Ma sì, dai, il cappello lasciatelo, ma chi se ne importa. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Questa è, viene direttamente dalla colonna sonora naturalmente di 9 settimane e mezzo. Vi ricordate Kim Basinger, Mickey Rourke, eccetera eccetera, un bellissimo film del 1986. E per introdurre un tema un po' scottante non potevamo che farlo su questa canzone. Infatti vogliamo parlare di Sara Tommasi. Sara Tommasi ha fatto recentemente parlare di sé perché ha accusato il proprio manager e il produttore di averla diciamo avergli fatto fare questo film porno che lei ha fatto, che ha fatto tanto parlare, che poi è stato sequestrato sotto l'influenza, sotto il, appunto, l'effetto degli stupefacenti. Infatti l'accusa è di aver introdotto la showgirl Sara Tommasi tramite uso di cocaina a girare un film a luci rosse in un hotel della zona di Salerno. Per questo motivo sono scattati gli arresti effettuati dall'arma dei carabinieri nei confronti di due persone in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Salerno. È stata la stessa Sara Tommasi a novembre dello scorso anno a presentare la denuncia in cui ha accusato di essere stata drogata e di aver subito violenza per girare quel film, che è stato poi sequestrato dalla magistratura il mese successivo. Ora, io ho visto il servizio delle Iene, va bene, lei era di fuori completamente, però mi sembra che sapesse cosa stesse facendo. Vabbè, comunque, caso Sara Tommasi archiviato e andiamo avanti. L'ha nominata Checco Zalone, adesso ce l'ascoltiamo. The song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't I thought had died so long ago. Oh, I'm free now, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen. I'm not at home in my own. Radio Network. Bellissima, non è vero? Che cosa? L'aurora. Stupenda. E anche questa settimana siamo insieme ad Erika Melis della redazione di filmup.com, il miglior portale italiano di cinema italiano, internazionale e mondiale. Ciao Erika, buon pomeriggio. Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio, si sta avvicinando la 70ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che avrà luogo appunto a Venezia, al Lido, dal 28 di agosto al 7 di settembre. Oggi vogliamo proprio iniziare a parlare di qualcosa relativo alla Mostra del Cinema, giusto? Iniziamo con il film di apertura della mostra, che ci farà vedere di nuovo sul red carpet George Clooney, che è un habitué del Festival di Venezia e che presenterà il film di Alfonso Cuarón, Gravity, come film d'apertura della mostra. Al suo fianco ci sarà Sandra Bullock e il film è totalmente ambientato nello spazio, dove due astronauti, durante una passeggiata spaziale di routine, vengono sorpresi da un incidente che distrugge la loro nave e i due poveretti, diciamo così, si ritrovano legati l'uno all'altro, dispersi nello spazio, vagano nello spazio senza possibilità di aver contatto con la pelle e la terra. Che bellezza, chi li recupererà? Come funziona? Vabbè, non lo svegliamo, se no svegliamo il film. Volevo solamente ricordare che Alfonso Cuarón è anche il regista di un film che a me è piaciuto tantissimo, che è Il figlio degli uomini, con Clive Owen, di qualche anno fa, spettacolare. Il regista mi piace perché utilizza anche delle soluzioni un po' particolari per quanto riguarda anche la ripresa, eccetera. Andiamo sulla parte tecnica, però è spettacolare veramente. Parliamo di altri film in sala, giusto? Sì, anche questa settimana ci sono tante nuove uscite, però vorremmo focalizzare l'attenzione su tre film. Una commedia, divertente, Questi sono i 40, che è un sequel di Molto incinta, un film di qualche anno fa con Katherine Heigl, solo che questa volta l'attenzione è focalizzata su Pete e Debbie, che nel film precedente era la sorella della protagonista. Il secondo film interessante è stato presentato lo scorso anno a Venezia e si intitola To the Wonder di Terence Malick, ma l'uscita fondamentale della settimana è sicuramente The Lone Ranger. Ta-ta! Johnny Depp di nuovo nei panni di un personaggio particolare, di nuovo appunto facendo un personaggio un po' strano. Raccontaci. Johnny Depp è un indiano, si chiama Tonto, praticamente è la spalla del giustiziere del titolo. È un personaggio molto particolare che per certi versi, almeno d'aspetto, ricorda tantissimo il Jack Sparrow, che tutti insomma certo. Conosciamo e amiamo. E insomma sarà un film veramente molto carino, con tantissime scene d'avventura, d'azione, umorismo, come insomma certo. Nel personaggio di Jack Sparrow. Film per la regia di Gore Verbinski, che è stato il regista anche dei Pirati dei Caraibi, e anche se non c'è la regia di Tim Burton, comunque ci ha infilato lo stesso la moglie, perché c'è la Boan Carter. Esatto, sì. E invece l'altro protagonista è Armie Hammer, che appunto sarà un uomo di legge che si trasforma in giustiziere. giustamente, ne servirebbe qualcuno in più. Va benissimo, il botteghino. Ok, sì, l'ultima informazione della settimana è il primo posto del box office, dove troviamo Brad Pitt col suo nuovo film basato su un romanzo del figlio di Mel Brooks, il regista. Mm-hmm. Si intitola World War Z e ha incassato più di 2 milioni di euro. Vedi, allora l'assioma estate, gente che non va al cinema, in alcuni casi non funziona, perché mentre After Earth, mi sembra, aveva totalizzato poco più di 900.000 euro in una settimana, questo ne ha fatti 2 milioni. Esatto, sì, sicuramente comunque film di qualità interessanti che richiamano il pubblico anche d'estate incassano. Benissimo, noi ringraziamo Erika Melis ancora una settimana per stare con noi sotto il caldo soffocante di luglio. Ringraziamo la redazione di Film Up, un saluto, alla settimana prossima. Grazie a te, ciao. Sempre più ansiosi sull'orlo di una crisi, con nuove nevrosi sogniamo dell'arrivo di donne stanotte in città, donne motori, chi ci salverà? Siamo maschi contro femmine, siamo libri senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine. E poi facciamo l'amore e dimentichiamo che siamo fatti così. E dopo fatto l'amore ci rivestiamo, ti chiamo lunedì. Siamo maschi contro femmine ed è un'eterna disputa senza nessuna regola, come una guerra atomica. Uomini sempre noiosi, in cerca di una sfida che non ha mai fine, per inseguire la donna dei sogni che poi svanirà, la fata turchina che ci salverà. Siamo maschi senza femmine, siamo foglie senza alberi, Sansone senza Dalila, una tristezza cosmica. Ma se troviamo l'amore dimentichiamo che siamo fatti così. E quando arriva la notte ci spaventiamo, dai stringi. Esseri così fragili, l'amore senza regole e non ci sono limiti. Così facciamo l'amore e ce ne freghiamo che il mondo va così. E dopo fatto l'amore ricominciamo perché è bello così. Bellissima canzone, devo ammetterlo, faccio un mea culpa, non la conoscevo, non ho visto il film, ma vi porrò rimedio il prima possibile. Anzi, ringrazio Sara per la selezione musicale anche di questa settimana. Sara oggi non sta tanto bene, quindi la salutiamo, gli diciamo rimettiti presto. Questo era Francesco Baccini, naturalmente l'avete riconosciuto, Maschi contro Femmine, dall'omonimo film del 2011. Bellissimo, bellissimo davvero. Per Movieland questa settimana vogliamo parlare di un fenomeno che si sta facendo pian piano strada tra diciamo gli amanti del cinema, tanto spettatori come realizzatori. È il fenomeno delle webserie. Parliamo di questo fenomeno con Max Gigliucci e Janet Renardis, che sono gli ideatori del Roma Web Festival, il primo festival italiano per quanto riguarda le webserie. Ciao a tutti e due. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Benissimo. buona serata. Allora, raccontateci, allora, innanzitutto, che cos'è una web serie? Qual è il meccanismo delle web serie? Allora, le web serie sono delle mini fiction realizzate per il web, sono dei racconti, delle storie che hanno comunque un nucleo narrativo con dei soggetti appunto che tornano a presentarsi nelle varie puntate e che appunto hanno un linguaggio molto dinamico, molto veloce, giusto appunto per la rete. Web serie quindi prevede che ci sia più di una puntata, diciamo normalmente si considera una web serie un gruppo di almeno 3 episodi di una stessa serie. Ok, si stanno producendo dei piloti un po' in giro per tutta Italia, ci sono persone che invece hanno proprio finito, hanno fatto una web serie, hanno fatto anche alcune stagioni della stessa web serie, come per esempio il fenomeno Freaks, essendoci tanti contenuti, magari c'è bisogno anche di qualcuno che li premi e quindi il Roma Web Festival per esempio. Perché diciamo avete avuto questa idea, da che cosa è nata e come funziona? Allora, nasce dall'opportunità di dare la possibilità a molti giovani, a molti videomaker di mettersi in mostra. Il festival viene utilizzato come allo stesso tempo la nostra piattaforma dedicata, che è www.romawebfest.it, per dare la possibilità a loro di farsi conoscere, ai produttori che poi un domani, nel caso sposino l'idea del progetto, di sviluppare il prodotto. Quindi nasce con questo intento, dare la possibilità a loro di farsi conoscere. Diciamo, il progetto nasce da un momento di grande evoluzione in Italia e anche, se vogliamo, di crisi. La crisi ha spinto, certo, a trovare delle nuove soluzioni anche alla creatività. Il progetto nasce dalla voglia di dare la possibilità ai giovani, ma anche appunto la possibilità al mercato, la possibilità ai produttori, la possibilità, certo, anche alle aziende di conoscere delle altre realtà attraverso le quali si possono vendere i propri prodotti. Anche praticamente una esigenza distributiva, perché anche se si sono moltiplicati i canali in Italia, quindi i contenitori si sono moltiplicati e quindi uno si aspetterebbe di avere molto più spazio per i contenuti, è comunque sempre difficile accedere magari al canale satellitare, al canale digitale terrestre per far vedere le proprie cose, giusto? Giusto. Giusto. Poi in realtà c'è anche un'altra esigenza, proprio l'esigenza creativa. Tantissimi filmmaker hanno finalmente avuto l'opportunità di mettere insieme quelle che sono le loro capacità, quella che è la loro voglia di raccontare delle storie in modo diverso. Purtroppo il mercato, ad esempio cinematografico, oggi da questo punto di vista è molto irrigidito, perché prima di realizzare una storia si deve andare a vedere se i distributori, che, certo, sono i primi che poi devono accettare quel film, saranno d'accordo, e quindi già lì c'è un grosso vincolo. Poi le produzioni, poi chi è raccomandato, poi chi deve, certo, entrare in quel determinato meccanismo, quindi diventa tutto molto difficile. In questo ne risente tantissimo la storia, che invece è alla base della narrazione, non viene più considerata in Italia, avendo invece degli autori grandiosi come quelli che abbiamo noi. Certo, io una domanda mi sorge, diciamo, spontanea. Praticamente i filmmaker si dilettavano nel cortometraggio. Il cortometraggio è per definizione low budget, quindi quasi tutti lavoravano gratuitamente per portare avanti un progetto appunto narrativo corto dai 5, 6, 10 minuti. Ora però mi domando, una web serie sono varie puntate, è un impegno di risorse sia in termini di attori sia in termini di troupe tecniche. Quali sono le possibilità di finanziamento per una web serie? Chi è che paga i costi di questa web serie? Allora, ci sono vari modi, diciamo. Oggi il mercato si sta appunto assestando, e poi durante il festival noi andremo a fare delle tavole rotonde in cui discuteremo proprio questo della parte di finanziamento, certo, e arriveremo poi a fare un focus anche su quello che è il crowdfunding. Realtà dei fatti è che nella maggior parte dei casi c'è stato un investimento da parte dei gruppi di filmmaker, delle piccole produzioni indipendenti, che appunto hanno realizzato a costo, diciamo, zero quelli che sono i loro prodotti, li hanno messi in rete, e poi i più fortunati, i più bravi, hanno trovato fondamentalmente dei produttori, quindi, sì, che magari grossi produttori o cinematografici o televisivi, che si sono interessati alla storia o al loro modo di raccontare, e quindi magari hanno sviluppato il loro progetto anche appunto remunerandoli. Però di fatto per altri ha funzionato molto questo tipo di meccanismo, perché ad esempio le aziende hanno investito su dei progetti che alla fine sono state delle vere e proprie web series per pubblicizzare il proprio prodotto. Certo. Faccio l'esempio di IKEA, di Peugeot, oppure di Renault, sì, di tante aziende che hanno deciso, Poste Italiane, di investire molto più su una web series piuttosto che su uno spot pubblicitario, su una campagna pubblicitaria cartacea. Perfetto. E scegliendo anche dei testimonial importanti che hanno creato una serialità per il lancio del prodotto. Per quanto riguarda il vostro festival, sono già chiuse le selezioni oppure ancora chi vuole può partecipare? Allora, in realtà fino al 30 di luglio è tutto aperto, si possono iscrivere web series italiane, web series straniere, vengono votate dalla rete, dagli utenti della rete, e alla fine di questo periodo, quindi il 30 di luglio, verranno prese le 10 web series di ogni categoria più votate nel seguente modo, ovvero 5 sono quelle che hanno avuto il maggior numero di voti, 5 sono quelle che hanno avuto i voti più alti. In questo modo cerchiamo di essere il più giusti possibile nei confronti di quelli che partecipano al concorso. Dopodiché un comitato tecnico va a fare un'ulteriore selezione, quindi sono 7 categorie, ne arrivano 35 più 5 che arrivano di diritto, una che arriva direttamente da Los Angeles, una da Hong Kong, una da Vancouver, una da Melbourne e una da Marsiglia. Questo perché noi abbiamo un gemellaggio con ognuno di questi paesi che mandano a noi il loro vincitore alla nostra finale, e noi abbiamo i nostri primi 5 vincitori, uno dei quali è collegato ad un paese e andrà di diritto alla finale del loro concorso. Ottimo, perfetto, complimenti per l'organizzazione. Il Roma Web Fest si svolgerà appunto a Roma in via Taranto al Teatro Golden il 27, 28 e 29 settembre. Quali sono i premi? Cosa si vince? Beh, già avere una visibilità internazionale è un grande premio, partecipare a quei festival. Ma non solo, ad esempio una delle web series vincitrici andrà su una piattaforma della Rai, avrà l'opportunità di andare su Rai 2 direttamente in prime time. Molto il prossimo anno. Perfetto, io vi ringrazio per l'intervista. Noi per ringraziamo il tempo. Te Emanuele, e anzi invita tutti i tuoi amici a partecipare al concorso e a connettersi a www.romawebfest.it. Voi fate altrettanto con Movieland, sponsorizzate il programma che ci sponsorizziamo a vicenda. Io ringrazio Janet e Max, un saluto a tutti e due, buon proseguimento. Grazie mille, grazie. Ciao a tutti. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, e ho buttato via per niente. Interessantissimo il mondo delle web serie. Prima ci siamo ascoltati Francesco Baccini, Maschi contro femmine. Adesso ci ascoltiamo dalla colonna sonora di Femmine contro maschi, Noemi con Vuoto a perdere. Benissimo, archiviata anche questa notizia, passiamo alla prossima. Una notizia molto interessante, perché è la prima volta che succede. Praticamente un film 42 in digital download per tutti. Infatti non era mai capitato, almeno in Italia, che a meno di 3 mesi dall'uscita statunitense un film di questo livello venisse distribuito online prima ancora della sua uscita in Blu-ray e DVD. Infatti 42 racconta la storia di due uomini la cui coraggiosa presa di posizione contro i pregiudizi ha cambiato per sempre la storia. La storia di una delle più grandi leggende del baseball, Jackie Robinson, primo afroamericano a giocare da professionista nella Major League di Baseball degli Stati Uniti. Dopo aver superato i 90 milioni di dollari di box office negli Stati Uniti, non sono spiccioli, oggi Legendary Pictures e Warner Bros. Home Entertainment hanno scelto di rendere immediatamente disponibile in lingua italiana 42 su iTunes. Quindi chi volesse può andare per saperne di più su www.itunes.com/42. Una bella canzone ritmata in Spanglish, un mix tra inglese e spagnolo che è molto utilizzato in America Latina. Questa era The Rhythm is Magic, Mary Claire Dubaldo, arriva dal 1996, naturalmente dalla colonna sonora del Ciclone, ma tutti lo sappiamo. Vi ricordo che siete con Movieland fino alle 19 su Web Radio Network. Buon ascolto. Per combattere i mostri abbiamo creato dei mostri a nostra volta. Cominciamo a vincere. Oggi, sull'orlo della speranza, affronteremo i mostri che sono alle nostre porte. Oggi noi cancelleremo l'apocalisse. Pacific Rim. Dall'11 luglio al cinema. Anvedi. Pacific Rim è il nuovo film di Guillermo del Toro. Vogliamo darvi una piccola anteprima, sicuramente ne parleremo nelle prossime settimane. Comunque, al suo 11° lavoro da regista, inclusi 2 cortometraggi e una serie TV uscita in Messico, Guillermo del Toro, anche sceneggiatore e produttore dei propri film, arriva nelle sale appunto l'11 luglio con Pacific Rim. Il film trae ispirazione dai Kyaiju, i colossali mostri misteriosi del cinema giapponese, che in questo caso vengono intesi come creature emerse da un portale interdimensionale sul fondo dell'Oceano Pacifico. Per fronteggiarli vengono ideate delle armi speciali, enormi robot antropomorfi alti circa 90 metri, chiamati Jiggers, di solito controllati simultaneamente da 2 piloti le cui menti sono collegate da una rete neurale, insomma una roba normale. Fantascienza e azione pura, quindi, per il nuovo film di Del Toro, che vede tra i protagonisti anche Ron Perlman, attore molto utilizzato da Guillermo del Toro, questa volta nei panni di un normalissimo essere umano, ma guarda caso. Infatti Perlman, sempre sotto la direzione di Del Toro, in Mimic ed Hellboy, aveva interpretato ruoli di creature non umane. Ron Perlman, ricordiamo essere l'attore che nel Nome della Rosa di Jean-Jacques Annaud interpretava Salvatore il Monaco Deforme. Quindi nuovo film per Guillermo del Toro, ce lo andremo senz'altro a vedere, ma noi vogliamo passare anche alla prossima canzone. E chissà se l'avrà trovata la sua anima, Vonda Shepard. Questo era Searching My Soul, alla ricerca della mia anima, appunto cantata da Vonda Shepard, il tema portante della serie che tutti ricorderete di Avvocati e Avvocatesse, Ally McBeal, andata in onda in Italia dal 2000 al 2005. Noi ragazzi siamo arrivati alla fine, chiudiamo qualche minuto prima perché voglio farvi sentire una cosa spettacolare. Va bene, intanto io faccio i saluti, un saluto a tutti, grazie Sara ancora una volta per la selezione musicale, rimettiti presto, un saluto a tutti gli ascoltatori, vi do appuntamento alla prossima settimana, Movieland sarà di nuovo con voi sabato prossimo dalle 18 alle 19 su Web Radio Network, mi raccomando, Emanuele sono io, la prossima settimana speriamo di avere anche i jingle, vero Pasquale, e quindi ci animeremo un po' di più e vi appunto prometto che dalla prossima settimana cercheremo di fare anche interviste con personaggi famosi, riconoscibili, come questi due che adesso ci ascoltiamo. Ebbene sì, perché voglio rendere omaggio a un grandissimo momento di doppiaggio italiano. Il film è quello che si intitola La Giuria, il titolo originale Runaway Jury, praticamente è un dialogo tra due avvocati contrapposti che si incontrano in bagno, nel bagno del tribunale. Sentite qua perché a me fa venire i brividi. Gli attori sono Gene Hackman e Dustin Hoffman, i doppiatori, che sono quelli che hanno fatto veramente il lavoro italiano, sono il grandissimo Sergio Fiorentini e il maestro Giorgio Lopez. Io vi lascio qua, buon ascolto, alla settimana prossima. Che piacere, a lungo atteso. Rankin Fitch, bell'abito, molto per il popolo. Meglio il suo, è una Griff Lobby produttori d'armi? Oh, scarpe di lusso, petrolieri? Coccodrillo, l'ho strozzato con le mie mani. Oh, stiamo facendo le pulizie. Vuole riempirmi di botte, avvocato Rory? Cosa ha fatto al mio test? Minaccia la famiglia? Segni in bianco? Sono curioso, che tecniche usa, signor Fitch? Avrà deciso di non mordere la mano a chi gli ha dato il pane per tanti anni. Lei sa benissimo perché è venuto da noi. Oh, la prego. La sua causa è affidata a uno che ha rimorsi di coscienza. È affidata alla mia coscienza. Oh. Adesso capisco. Lei è un uomo retto che vive in un mondo di relativismo morale, cari vecchi valori scomparsi. Ehi, la faccia finita! Qui parliamo del mio test e di lei che si fa gioco della mia cliente, del processo e delle norme giuridiche che governano questa nazione. Questa nazione? Sì! Non la facciamo un patriota, signor Rohr, visto il suo palese disprezzo per il diritto a portare armi. Ha presente il secondo emendamento. Ma quello che fa per difendere la Costituzione, vero? No, che certo. Lo faccio per vincere. Ah. Esattamente come lei. Perché questo sono tenuto a fare. Uh-huh. Tutto il resto sono bubole. Sono bubole? È una bubola! La legge che chiama 12 persone a sedersi ad ascoltare le deposizioni dei testimoni, amico, tra i quali c'è anche il mio testimone, che lei ha fatto sparire. Se lei conta sulle testimonianze per vincere, ha già perso il processo. Amico, sa che gliene frega la giuria di negligente distribuzione, responsabilità del produttore? Oh, altro che se gliene frega. No, sanno appena sillabarle, figuriamoci capirne il significato. Chi è giurato meglio, Re Salomone? No! È un manovale con un mutuo che vuole andare a casa per sbracarsi sul divano e farsi rimbecillire dalla TV. E quest'uomo se ne sbatte altamente, ci si pulisce il culo con la verità, la giustizia e il suo senso morale. Sono esseri umani, Fitch. Ma è proprio quello che dicevo. E lei non ha capito niente, mi sembra, di quello che dicevo io. Che spera di ottenere vincendo? Si spieghi. Restituirà la vita a Jacob Wood? No. Otterrà che la vedova abbia un'auto migliore per andare al cimitero e che il tacco che le si romperà recandosi alla tomba appartenga ad una scarpa da $1,000 e che il suo nome appaia sul giornale. Ma Jacob Wood e tutti gli altri morti per arma da fuoco continueranno a marcire nei loro sepolcri. Mm. Beh, Savage, lei perderà. Ah, ne dubito, Ror. Forse non questo, nel prossimo processo, ma perderà. Alla fine perderà. Succede sempre a tipi come lei. E lo sa perché? Perché? Perché tutta questa protervia che si porta dentro diventerà un morbo maligno. E lei si ritroverà tutto solo, circondato da ombre, senza altra compagnia che il ricordo di tutte quelle vite umane che ha distrutto. Un bel apologo, Wendell. Ed è anche un'altra prova che non può battermi. Perché lei sarà pure nel giusto, ma fondamentalmente io me ne sbatto. Anzi, me ne sono sbattuto sempre. Bel completo.